Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. C'erano una volta le guerre e ci sono ancora. Una volta le guerre venivano dichiarate, gli ambasciatori venivano ritirati, gli eserciti schierati ordinatamente. Si moriva insomma secondo una ritualità ben precisa, in ordine. Ma ciò non diminuiva l'orrore di tante, troppe, morti inutili. Perché le guerre continuano e si sono trasformate. Si combattono negli angoli più remoti del mondo secondo nuovi schemi. Il terrorismo, la guerriglia, la rappresaglia disordinata, la finanza, la speculazione, la fame. Si combatte per le risorse, per il petrolio, per l'acqua. A volte non c'è più nemmeno il bisogno di inventarsi le cause per cui ammazzarsi, le scuse per cui ammazzarsi. La politica, la vendetta, Dio. C'è sempre più bisogno di pace. C'è sempre più bisogno di operatori di pace credibili. Ed è questo il titolo del messaggio di Papa Benedetto XVI per la giornata mondiale della pace festeggiata lo scorso 1 gennaio. A Padova, per questa data importante, si è svolta come ogni anno la Marcia della Pace, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, dall'Azione Cattolica, dalle ACLI, dal CSI, dalla GESCI, con la partecipazione anche di noi, della Comunità Papa Giovanni XXIII, dei Focolari, della FUCI e MASCI. Perché è importante insistere anche in pubblico, anche sfilando in piazza per il valore della pace? La risposta, forse, è già contenuta nel messaggio del Papa. Dal messaggio di Papa Benedetto XVI per la 46esima Giornata Mondiale della Pace. Emerge, in conclusione, la necessità di proporre e promuovere una pedagogia della pace. Essa richiede una ricca vita interiore, chiari e validi riferimenti morali, atteggiamenti e stili di vita appropriati. Difatti, le opere di pace concorrono a realizzare il bene comune e creano l'interesse per la pace, educando ad essa. Pensieri, parole e gesti di pace creano una mentalità e una cultura della pace, un'atmosfera di rispetto, di onestà e di cordialità. Bisogna allora insegnare agli uomini ad amarsi e ad educare alla pace e a vivere con benevolenza più che con semplice tolleranza. Incoraggiamento fondamentale è quello di dire no alla vendetta, di riconoscere i propri torti, di accettare le scuse senza cercarle e infine di perdonare. In modo che gli sbagli e le offese possano essere riconosciuti in verità per avanzare insieme verso la riconciliazione. Ciò richiede il diffondersi di una pedagogia del perdono. È con noi in collegamento telefonico Alessandra Coin, responsabile della comunità di Sant'Egidio di Padova. Grazie per essere con noi, Alessandra. Prego, buongiorno a tutti. Per la 46esima volta all'anno, per i cattolici e non solo, si è aperto con una giornata mondiale dedicata alla pace. Perché è così importante la pace? Ma guarda, penso che quello che preoccupa oggi è che il conflitto, anche all'interno delle società, non solo all'interno di quei paesi che sono in guerra tra di loro, che sono in guerra armata, ma che proprio la mentalità del conflitto possa tornare ad essere popolare tra la gente. In effetti, in anni recenti, in alcuni stati era emersa questa convinzione che vi sono momenti della storia in cui la guerra non si può evitare. Noi siamo preoccupati per questo, siamo preoccupati per un clima di violenza diffusa e a guardare anche le nostre società europee siamo preoccupati perché la lezione della Seconda Guerra Mondiale, della Shoah, sembra non essere bastata. Si cercano ancora nemici, si cercano capri espiatori, per fare un esempio gli immigrati, per fare un altro esempio gli zingari, gli ebrei, altre minoranze. E questo contribuisce a diffondere la cultura della contrapposizione, il razzismo, il conflitto. Per cui oggi c'è ancora tanto bisogno di spendersi per la pace. Prima abbiamo letto un brano tratto dal messaggio uscito il mese scorso del Papa, dal titolo Beati gli operatori di pace. Il Papa, abbiamo preso l'ultimo pezzo, quello chiamato proprio della necessità di una pedagogia della pace, per formare nuovi operatori. Come ti è sembrato il brano? Se risponde un po' alla nostra domanda, perché è necessario manifestare per la pace, perché è necessario lavorare per la pace, di queste parole cosa ti è rimasto, come ti ha guidato in questo mese? Ma guarda, io sono stata molto contenta di questo brano, perché è un brano che richiama la vita interiore, richiama la responsabilità di ognuno di noi, come cristiani prima di tutto, ma forse anche come uomini e donne di buona volontà, come amava dire Papa Giovanni XXIII. E richiama a fare pensieri, a dire parole, a fare gesti di pace. E c'è una frase che mi è molto cara rispetto a questo, è di Martin Buber, e dice: cominciare da se stessi, ecco l'unica cosa che conta. Il punto di Archimede, a partire dal quale posso, da parte mia, sollevare il mondo, è la trasformazione di me stesso. E questa frase mi sembra particolarmente vera, è una frase su cui rifletto spesso, e mi è piaciuto che il Papa, mi ha colpito, insomma, mi è piaciuto, ecco, che il Papa abbia richiamato a questa necessità di vita interiore, di spiritualità, di partire con se stessi, di vivere con benevolenza, di costruire una cultura diversa dell'amore e del perdono. San Serafino di Sarov scriveva, un mistico russo, scriveva: acquista la pace in te stesso e l'avranno in migliaia attorno a te. Ecco che allora, se ognuno di noi acquista la pace, chissà quante migliaia attorno a noi potranno trovare la pace. Questo mi sembra molto vero, non è un'utopia, possiamo pensare che sia un sogno, che sia una visione, ma dobbiamo cominciare ad avere sogni, visioni, a guardare al futuro e a non essere schiacciati solo dal nostro presente. Prima di tornare con la mente e con il cuore, la settimana scorsa la marcia della pace che ha attraversato le vie di Padova, volevo tornare anche su un pezzettino del brano che abbiamo letto. Il Papa invita nella sua pedagogia per la pace anche al dire di no alla vendetta, a partire, come dicevi tu, dal singolo, dimentica il male che ha ricevuto e già si andrà avanti con la pace. Io penso a tutte le guerre etniche, penso a molti conflitti nel mondo che nascono proprio per un principio di vendetta, per un principio di odio. Quanto è importante, certo, questa segnalazione del Papa? Ma mi sembra un fatto fondamentale, perché dire di no alla vendetta vuol dire anche alla fine perdonare, riuscire a perdonare, e questa mi sembra una scuola molto importante che peraltro la comunità di Sant'Egidio, nella sua lunga esperienza di riconciliazione, insomma, nell'ambito di conflitti in paesi in guerra, ha applicato e ha aiutato ad applicare molto spesso. E un altro esempio che mi viene in mente molto importante è quello che riguarda la pena di morte. C'è un'associazione che si chiama Journey of Hope, Viaggio della Speranza, From Violence to Healing, dice, dalla violenza, che sarebbe la vendetta, poi al perdono. Sono familiari di vittime di condannati a morte che non desiderano per loro vendetta che il condannato venga eseguito, ma che chiedono la grazia per quel condannato. Ecco, mi sembra questo un esempio bellissimo di che cosa vuol dire costruire una cultura della pace, ricostruire la pace a partire dalla rinuncia alla vendetta per fare il bene e non far prevalere il male. Grazie Alessandra, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo dopo una breve pausa. Il bene di tutti, parliamone. Non mi tradire quando vai al mare, quando vai a lavorare, io sarò con te. No, non mi tradire, bella come sei, mi potresti rovinare, farmi morire, hai tanto da fare e passo il tempo ad aspettare. Ah, io sono come un animale e tu insegnami. No, non mi tradire quando vai al mare, quando vai a lavorare, sai quante ma io voglio lei mentre sto per affondare. Giù mi porta questo strano amore e tu dove sei. E finirà tutte le sere a farmi male, lì nascosto in un portone, ore ed ore ad aspettare. Perché fa male, male da morire. Nessuna volontà sarà più forte dell'amore, che fa volare e poi cadere tra le braccia di un dolore. Nella mente quanto male fa solo l'immaginazione, chissà se anche tu la senti questa libertà che diventa una prigione. Noi, noi forse non ci siamo detti mai una sola verità. Non vorrei notti a farmi male, forse sotto ad un lampione, ore ed ore ad aspettare. Perché fa male, male da morire. Nessuna verità sarà più forte dell'amore, che fa volare e poi cadere tra le braccia di un dolore. Di perdermi è solo amore che mi trascina dove vuole e diventa un'ossessione che non mi abbandona mai. Mai. Sono un uomo che chiede aiuto e scrivo un messaggio d'amore, ma tu chi sei, tu chi sei tu per farmi così male. Sono un'ombra nascosta nel buio, sono un uomo che muore d'amore, e tu chi sei tu per farmi così male. Non mi capire, ma quando vai al mare e quando vai a lavorare, potresti rovinare. Oh, perché fa male da morire. Fa male, male da Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento con Alessandra Coin, responsabile della comunità di Sant'Egidio di Padova, che assieme a tante altre associazioni la scorsa settimana ha marciato per la pace per le strade di Padova. Grazie Alessandra per essere con noi. Grazie a voi. Torniamo alla Marcia della Pace con la mente e con il cuore, come ho detto prima. Durante la Marcia della Pace avete anche celebrato in qualche modo i 20 anni dalla pace in Mozambico, una pace realizzata, come si è ricordato spesso in questi mesi, grazie alla mediazione senza armi e senza eserciti fatta da voi della comunità di Sant'Egidio. In breve, ci può raccontare questa esperienza e un intervento di questo tipo con queste modalità può avere senso anche oggi? Certo, ma mi sembra che quella del Mozambico, che adesso vi vengo a raccontare velocemente, è una storia che ci dà un messaggio importante, e il messaggio importante è che è possibile fare pace. E questo, appunto, come dicevamo prima, in una cultura che invece fa pensare che le guerre siano inevitabili e che quindi non sia possibile risolvere diversamente una situazione di conflitto, è un messaggio molto importante, a mio avviso, e molto chiaro. Altrimenti la guerra e il disprezzo si fanno cultura e possono deformare davvero l'anima di popoli interi. Ma il rapporto di Sant'Egidio con il Mozambico si innesta in un rapporto che il paese africano aveva con l'Italia, che risale ai primi anni 70, alimentato da una lunga storia di cooperazione italiana. E noi promuovemmo in quegli anni il Comitato Amici del Mozambico, mandammo due navi di solidarietà, un aereo, ma ci accorgemmo subito che tutto ciò veniva fagocitato, ecco, dalla guerra, che la gente non riusciva a beneficiare di tutto quello che mandavamo, che la guerra era la madre delle povertà del Mozambico. E capimmo che bisognava affrontare il problema. Il primo problema era riuscire a identificare gli interlocutori, non solo la Frelimo, che era il partito del governo, ma anche la Renamo, che era la cosiddetta guerriglia. Era necessario trovare le persone giuste, fu Monsignor Matteo Zuppi a fare enormi sforzi nella direzione della ricerca degli interlocutori della guerriglia. E fu così che riuscimmo a organizzare un viaggio segreto di Zlakama, che era il leader della guerriglia, in Italia. E questo fu un passo in avanti nella creazione della fiducia, e nella primavera del 90 ci chiesero, sia quelli della Renamo che quelli della Frelimo, di poter convergere nella sede romana di Sant'Egidio per iniziare le trattative di pace. Durarono due anni, furono molto lunghe e suscitarono anche ironie, critiche, proprio per il tempo che impiegammo ad arrivare, ma fu il metodo che permise di tenere fuori dalla sala delle trattative la ricostruzione dei torti e di un passato impossibile da ricomporre. Il metodo era quello che insegnava Angelo Giuseppe Roncalli, divenuto Papa con il nome di Giovanni XXIII, che diceva: bisogna cercare quello che unisce e mettere da parte quello che divide. Fu questo metodo a portare alla firma delle trattative di pace il 4 ottobre del 1992. Ovviamente non fummo noi gli unici interlocutori. Nel momento in cui i negoziati presero una certa piega positiva, si poterono inserire altri interlocutori diplomatici dell'ambasciata presso la Santa Sede, americani, ma poi anche francesi e altri, insomma il Regno Unito, il Portogallo, l'ONU, fino alla fine dare un peso, diciamo, ecco, anche internazionale a questa trattativa, affinché essa fosse riconosciuta definitivamente. Un modello di fare pace rimasto nella storia, però vorrei dedicare gli ultimi due minuti che abbiamo a disposizione a un altro tema importante della pace, che è stato inserito dal Papa all'interno del suo messaggio e che ha fatto anche un po' di scalpore. La difesa della vita, la difesa della vita in ogni sua forma, l'aborto, chiaramente contro l'aborto, l'eutanasia, la difesa della famiglia. All'interno della vostra marcia della pace questo tema è riemerso anche nelle parole della testimonianza della comunità Papa Giovanni, sulle case famiglia, su come avvengono, su quello che portano anche come, non solo come aiuto alle singole persone, ma anche come modello all'interno della società. Ce ne può parlare? Certo, ma per me è sempre una testimonianza molto toccante quella di questa scelta delle persone della comunità Papa Giovanni di allargare proprio le porte della loro famiglia, includendo tanti che invece nella nostra società purtroppo vengono allontanati, esclusi e talvolta anche eliminati, se possiamo dire così. E questo è un tema che mi è particolarmente caro, soprattutto laddove tocca la questione degli anziani. Tante volte appunto gli anziani sono spinti ai limiti della nostra società, isolati magari in mega strutture istituzionali, e mi sembra che includere gli anziani nelle nostre famiglie, nelle loro famiglie, sia un gesto profetico per la nostra società, anche guardando al futuro. E il Papa è venuto il 12 novembre in visita presso una casa famiglia della comunità di Sant'Egidio in quest'anno europeo dell'investimento attivo e della solidarietà tra generazioni. Ha speso delle parole bellissime su questo, esco ringiovanito, rafforzato, nel vedere anche come nella vecchiaia la vita può essere buona perché ci sono degli angeli che ti aiutano, angeli visibili che fanno visita, che si impegnano, così loro stessi sono arricchiti. Ecco, penso che questo sia il segreto. Traggo spunto, ecco, dalla visita del Papa, ma anche da quello che abbiamo sentito nella testimonianza della comunità Papa Giovanni. Vorrei dire una cosa: secondo me noi cristiani vivendo la nostra fede, possiamo fare in modo che l'amore per il Vangelo, l'amore per i poveri, l'amore per tutti, diventi cultura della vita e cultura della promozione della vita. E questo sicuramente è il nostro futuro, deve essere il nostro futuro. Non si può andare avanti ad eliminare, a tagliare, per far uscire una società di puri, allora alla fine, di sani, di giusti, ma bisogna invece, secondo me, secondo noi cristiani, penso di potermi fare interprete, includere e allargare la nostra famiglia. La famiglia di Dio è la famiglia di tutti gli uomini e di tutte le donne. Grazie, ho notato quindi dalle sue parole, insomma, che all'interno anche di tante differenze, anche all'interno stesso del mondo cristiano, ma anche chiaramente con il mondo con cui la cristianità si mette in dialogo, il valore universale in cui tutti possiamo riconoscerci è la pace ed è il pensare che in questo mondo c'è spazio per tutti. Grazie Alessandra per essere stata con noi, grazie alla comunità di Sant'Egidio per tutto quello che ha fatto in questi anni per non solo la pace, ma anche per l'idea della pace che ci portiamo dentro. Grazie. Grazie, arrivederci. Carissimi ascoltatori, noi ci troveremo nuovamente la settimana prossima su queste frequenze. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito di Blu Radio Veneto o potete mandarci una mail per critiche, suggerimenti, elogi o segnalazioni a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, vi rinnovo gli auguri di buon anno che inizia e alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.